English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera conosceremo un personaggio molto particolare. È famosissimo nel suo campo, nel campo degli informatici, perché è veramente un genio e ha inventato qualcosa di molto importante. Lo scopriremo tra qualche istante. Intanto vi dico il suo nome, si chiama Lars Bak, è danese, ma la cosa divertente è che se voi lo cercate su Google, e lui con Google ha davvero a che fare, non lo trovate subito perché trovate prima un omonimo che è un ciclista. Parla di lui però il Financial Times, che ci spiega perché è un genio e cosa ha fatto di tanto importante. Sentiamo questo estratto dal CD del nostro English 24 in edicola. About 5 miles outside of Aarhus in Denmark, the country's second biggest city and the unofficial capital of Jutland, sits a converted farmhouse. Inside, in a large wood-floored space with vaulted ceilings, once part of the stables, a big brown leather sofa is positioned a few feet from a DVD player. From the outside, with its rough cobbles and small recessed windows, the farmhouse still seems steeped in the past. Yet this is the place where a key part of the future of the internet first took shape. The drive from Copenhagen has taken longer than expected, and the farmhouse is hard to find. Lars Bak, its owner and a programming genius to his peers, made his home here for a reason. He doesn't particularly want to be found. His Alsatian, Mickey, isn't pleased to see us either. The dog has to be restrained before I even think about stepping out of the car. Giulia, intanto dove ci troviamo? Dunque, ci troviamo a about 5 miles outside of Aarhus, quindi 5 miles sono circa 7 chilometri e mezzo da Aarhus, che è la second biggest city of Denmark, quindi la seconda più grande città della Danimarca e anche the unofficial capital of Jutland. Jutland è una regione della Danimarca, la Danimarca non è uno stato federalista come noi, quindi per questo unofficial capital, non è un vero e proprio capoluogo, però essendo la seconda città più grande lo è di fatto. E in questo luogo in particolare dove ci troviamo? Dunque, c'è questa, in questo five miles outside of Aarhus, sits a converted farmhouse. To sit, lo sappiamo, naturalmente vuol dire sedere, però vuol dire anche trovarsi, se viene detto di una cosa inanimata. Quindi c'è questa, to sit, quindi si trova questa farmhouse, questa fattoria converted, nel senso che era una fattoria ma non lo è più. Questa fattoria, che ha insomma alcune caratteristiche, viene brevemente descritta nel pezzo del Financial Times. Deve essere un luogo fantastico, con questi wood pavements, quindi il parquet per terra, e poi vaulted ceiling è naturalmente il soffitto, vaulted con delle volte, ma perché? Non perché appunto fosse una dimora, una reggia, ma perché addirittura was once part of the stables sono le stalle, quindi questa era una vera e propria fattoria con appunto probabilmente anche il granaio, le stalle e in quello che una volta erano le stalle, quindi immaginiamo con questi soffitti altissimi, ora il nostro personaggio ha il suo quartier generale. Infatti questo pezzo ci dà proprio la sensazione di entrare in questa fattoria, così sembra un po' antica, un po' appunto un luogo di campagna, ma cosa troviamo subito? Però appunto dicono c'è questo sofa positioned a few feet from a DVD player, quindi il divano, che il leather sofa, il divano in pelle, è in realtà molto vicino a un DVD player, quindi subito un pochino di tecnologia, e perché qui, dice la giornalista di Financial Times, it first took shape, quindi prese forma, to take shape, shape è la forma, to take shape, prendere forma, esattamente come in italiano, una parte importante di internet. E lo scopriremo tra poco. Intanto incontriamo questo Lars Bak, non è facilissimo incontrarlo. No, poi perché si è scelto appunto un perché 5 miglia, 7 chilometri e mezzo non sono tante, però dice the drive from Copenhagen, quindi il tragitto in macchina da Copenhagen has taken longer, ci è voluto più tempo. Perché? Perché questo posto è hard to find. Perché... Insomma, non vuole essere scoperto questo Lars Bak, che infatti è conosciuto solo da chi lavora con lui o chi lavora nello stesso ambito, e anzi ha una reputazione altissima. Considerato a genius to his peers. Allora, peers sappiamo tutti che cosa sono i pari, no? Tutti abbiamo sentito questa definizione di peer to peer, cioè tutti quelli che sono programmatori. Lui è owner della farmhouse ed è un programmatore, e lo considerano un genio. Quindi to be a genius to one's peers vuol dire essere considerato un genio dai propri colleghi, possiamo anche dire, al posto di pari, che è meno usato in italiano. Un genio solitario e protetto da un cane. Sì, quando la giornalista arriva trova questo "he's Alsatian Mickey, he'sn't pleased to see us either". Quindi l'alsaziano, che ha un nome, questo pastore alsaziano, si chiama Mickey, non è contento. To not to be pleased vuol dire non essere contenti to see us either. Either naturalmente perché è inglese, un americano direbbe either. E non è contento di vedere nemmeno la giornalista, ma noi ormai siamo curiosissimi di scoprire cosa ha fatto questo Lars Bak. Allora, Lars Bak è un programmatore che è stato scelto da Google per sviluppare Chrome. Adesso noi lo sentiamo proprio parlare, perché lui stesso spiega in prima persona come ha lavorato, come ha operato, ma abbiamo detto è danese. Quindi questa volta stiamo attenti perché abbiamo un accento, ma insomma un po' ostico. Ascoltiamo insieme Lars Bak. Hi, I'm Lars Bak. I'm the tech lead for the V8 project. And the V8 project is a new, exciting, high-performance JavaScript engine we built here at Google. The V8 team is located in Aarhus, Denmark, but we also have a few people working on the project here from Mountain View. JavaScript was originally designed to be a way of customizing simple customization inside the browser, so if you press the button, it could do different things. So it allowed the programmer to change the behavior of the browser. In the beginning, it was only meant to be a small piece of code you added to your web application. One of the interesting properties of JavaScript and the reason why it's being used today is that it's platform independent. So you can run on macOS or Windows and use the same application inside the browser. L'abbiamo detto, ostico, è un po' difficile da capire perché lui parla in inglese, parla in un buon inglese, ma con un accento molto pesante danese al quale non siamo solitamente abituati. Cosa ci racconta Lars Bak, che intanto si presenta? Si presenta, dice, I'm Lars Bak, I am the tech lead for the V8, quindi the tech lead, to lead, naturalmente sappiamo essere il leader, quindi guidare, e perciò lui è alla guida di questo team tecnologico, è la guida tecnologica for the V8, che come vedremo è appunto questa variante di cui parlava Marta, anzi lui la trova subito perché è un programmatore, ama il suo lavoro, è a new exciting high performance, quindi è naturalmente una roba per lui super eccitante, per noi profani forse un po' meno da capire. Beh, insomma, però pare che questo gruppo che si trova proprio tutto in questa cittadina danese sia particolarmente all'opera su questa novità straordinaria, insomma, che li emoziona molto. Sì, questo ci fa capire anche come funziona Google, quindi a ogni progetto viene affidato un team di tecnici, quindi lui è il tech lead, però c'è un vero e proprio V8 team che is located in Aarhus, quindi questi tecnici sono a Aarhus, poi c'è lui che probabilmente con tutte le diavolerie che ha, oltre al DVD player, che probabilmente è l'ultima, è la cosa meno tecnologica che ha, può naturalmente fare il suo lavoro tranquillamente dalla sua fattoria. Cosa hanno combinato questi danesi a Chrome? Lui dice, cerca di spiegarci come è nata questa idea, però all'inizio voleva essere solo una customization inside a browser. Allora, il browser, che è il più famoso di tutti naturalmente, è Internet Explorer, ma adesso c'è Chrome, e poi una volta, forse qualcuno se lo ricorda, c'era Netscape, è dal verbo to browse, che è usato anche per i cani, cioè i cani annusano, vanno in giro ad annusare. Il browser in fondo cosa fa per noi? Annusa i siti web e ce li trova. Obbedendo più o meno ai nostri comandi. Questa era quindi un'idea per customize il browser, cioè per renderlo più adatto alle nostre esigenze o anche a quelle del programmatore. E questo codice che loro stanno studiando, stanno implementando, cambia il comportamento, behavior. Addirittura appunto come un addestratore si cerca di cambiare il comportamento del proprio cane, qui il programmer can change the behavior of the browser. Quindi con questo small piece of code, questo piccolo pezzettino di codice, perché sappiamo che probabilmente i codici che guidano programmi, perché poi è un programma il browser, programmi come Chrome o come Internet Explorer sono chilometrici, quindi solo un pezzettino lo cambiamo, come nel DNA che si può cambiare una piccola sequenza e cambia tutto. Insomma, già ci spiega che viene usato perché è platform independent, quindi può essere usato sia con Windows sia con macOS, ma adesso andiamo a sentire qualcosa di più dettagliato, di più particolareggiato, sempre dal nostro Lars Bak. Let me talk about the three key design decisions we did in V8. The first one is the hidden classes, the second one is the generated code, and the third one is the efficient memory management system we have. So first I want to show you how we have introduced hidden classes in our system. As you all know, JavaScript is prototype based, and if you have a function here called point, where we create a new object and assign x and y to the parameters, and here the last two lines will create two different points where x and y is 0 and 1 and 2 and 3. In most JavaScript implementation, you will have two independent objects that will not share any common structure. That's different in V8. So here's a drawing what we do in V8. Here you have the two different objects, A and B. And instead of having them being completely independent, like in most JavaScript implementation, we actually make them share a hidden class. So instead of creating two objects, we create three, A and B, and then the hidden class for these two objects. The hidden class will actually explain that both these two objects have the same number of properties, namely two, and they're named x and y. Scientificamente non sarei in grado di spiegarlo, però andiamo a cercare di capire che espressioni ha usato il nostro danesissimo Lars. Tanto comincia, let me talk. Fatemi spiegare e adesso vi chiarirò tutto. Lui ce la mette tutta, nel senso che ci prova a essere il più chiaro possibile. Il problema è che il linguaggio dei programmatori è per l'appunto un linguaggio a sé stante con un gergo che non è facile comprendere, però lui cerca di spiegare. Quindi cosa sono queste three key features di questo nuovo piece of code che lui insieme ai suoi collaboratori ha creato? Dunque, prima di tutto ci sono queste hidden classes, che letteralmente vuol dire classi nascoste. Questo è un termine usato dai programmatori, possiamo dire delle classificazioni. E poi c'è questo generated code. Nei programmi c'è una parte di codice che è fisso e una parte che invece viene autogenerato, e quindi in questo caso appunto ovviamente può essere guidata questa autogenerazione dai genietti come Lars Bak. Ma parliamo un po' di questa parola management. Naturalmente management sappiamo, mamma mia quanto la usiamo questa parola. Originariamente il manager è semplicemente qualcuno che fa qualcosa, che gestisce qualcosa. In questo caso però in senso figurato, quindi management system della efficient memory management system, quindi un sistema efficiente di gestione della memoria. E questo è un altro di queste particolarità messe appunto da Lars Bak. Quanto utilizziamo la parola management e quanto sbagliamo a pronunciarla, perché l'accento va messo lì. C'è poi una spiegazione un po' complicata di alcune funzioni che loro utilizzano per questo codice che hanno implementato in Danimarca. Naturalmente viene ricorre anche questa parola del JavaScript, che è un'altra cosa che i programmatori maneggiano con grande agilità. Noi magari la riconosciamo solo perché ha quel simboletto della tazzina da caffè con il fumo che esce dalla tazzina. Comunque è uno script particolare detto appunto JavaScript, e qui lui dice creiamo un new object, perché questo sarebbe un object, ma lui non gli viene tanto bene di dire la J e quindi dice un new object. E poi forse avete notato, non ha detto generated code ma generated code, quindi è questa particolarità dell'accento in generale scandinavo, insomma, se vi capita notatelo. Gli olandesi sono ancora un po' diversi, però anche loro direbbero object. E noi tra l'altro intuiamo che sta disegnando questa funzione. Sì, gli assi cartesiani che tutti ci ricordiamo del liceo. Infatti he assigns x and y to the perimeters, quindi disegna questo perimetro con gli assi, le funzioni, perché poi noi le rappresentiamo graficamente negli assi cartesiani, ma sono delle funzioni, quindi le chiama x e y. Questo ce lo ricordiamo un po' tutti. Here's a drawing e naturalmente of what we do, cioè lui ce la mette tutta veramente, cerca anche di farci un disegno, di visualizzare con cosa fanno in V8, in questo piece of code che ha realizzato nella sua fattoria. Ci sta molto simpatico questo Lars Bak nascosto nella sua fattoria e protetto dal suo cane alsaziano. Per saperne di più vi rimandiamo al nostro English 24 in edicola, perché la puntata si conclude qui. Io ringrazio Filippo Aureggi in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'augurio di una buona serata.